Born to be wild, nati per essere selvaggi e liberi, com'è nella loro natura, e non per finire scuoiati. È questo lo slogan coniato per i bisoni di Montirone, allevati dalla famiglia De Poli Bellina, nella ex fioriera di Via Palazzo, un tempo agriturismo e dal 2010, purtroppo, fabbrica di animali da pelliccia. Come avevamo già preannunciato precedentemente, il 10 novembre scorso, nel paese vassaiolo, si sono dati appuntamento centinaia di animalisti, che per chiedere nella chiusura hanno sfilato 3 ore sotto la pioggia. A livello mondiale il business delle pellicce comporta la sofferenza e la morte di circa 70 milioni di animali l'anno. L'approvvigionamento avviene per l'85% attraverso gli allevamenti e per il 15% da catture in natura. Dagli allevamenti europei provengono il 60% delle pellicce commercializzate nel mondo, più del doppio della produzione cinese. Per contrastare l'industria delle pellicce, a Montirone, un serpentone pacifico sormontato da striscioni ha girato le vie del paese, partendo dalla piazza e fermandosi a distanza da Via Palazzo, sede dell'allevamento off-limits per disposizioni della questura. Dopo una manifestazione a settembre, il bis questo mese non è casuale. A metà novembre si conclude il ciclo vitale dei visoni, spiega Giancarlo Paderno di Animal Amnesty, ossia gli animali da qui a Natale vengono uccisi. Altro che conclusione degli svezzamenti, come ha sostenuto l'azienda per ottenere la sospensiva del TAR. Quelle avvengono in primavera. Le torture iniziano con la privazione del cibo, così che con il freddo sono costrette a potenziare il pelo e finiscono con il gas. Tra l'altro, l'azienda, a meno di 50 metri dalle prime case, non sarebbe a norma con le distanze di legge. L'impugnazione davanti al TAR è sfociata in una sospensiva fino a fine novembre. A gennaio l'udienza in merito. Tuttavia, dobbiamo ricordare una notizia positiva ripresa dal sito Essere Animali. Il comune di Noceto, un piccolo comune in provincia di Parma, vieta l'allevamento di visoni. Questa è un'esperienza pilota che naturalmente terremo sotto controllo. Parliamo con Mariangela Corrieri, responsabile LAV di Firenze e provincia. Allora, sabato eri alla manifestazione. Secondo te l'opinione pubblica come la pensa a riguardo delle pellicce? Ma guarda, io penso che l'opinione pubblica sia abbastanza consapevole del che non sia giusto, degno l'essere umano uccidere animali per mettersi una pelliccia addosso, tant'è che la pelliceria è molto in diminuzione. Per esempio, nel 1990 c'erano 170 allevamenti, ora in Italia ce ne sono soltanto 10, quindi l'opinione pubblica è favorevole a eliminare la pelliccia. Abbiamo avuto anche durante il percorso delle persone che ci hanno applaudito, però c'è l'industria della pelliccia che invece si ricicla, non più cappotti, ma colli, guarnizioni, pellicce messe nelle scarpe, nelle borse, dappertutto. Quindi, insomma, non bisogna rallentare la lotta. Abbiamo letto che l'attività della pelliceria è stata momentaneamente fermata. Secondo te c'è la possibilità che effettivamente il posto venga chiuso? Ci potrebbe essere questa possibilità, perché lo stesso comune ha promosso un contenzioso amministrativo, in quanto questo allevamento di Montirone è situato nella prossimità di una zona residenziale, e anche la LAV ha promosso un'azione legale per maltrattamento degli animali, e quindi visto anche proposte di legge che sono state presentate da alcuni parlamentari e da questa petizione che sta circolando e ha già raccolto tantissime firme, io mi auguro proprio e spero proprio che questo allevamento chiuda. Qualora l'allevamento chiudesse, secondo te che fine farebbero i visoni? Io personalmente a questa domanda non saprei ben rispondere. Forse ci sono delle strutture che possono accoglierli. D'altra parte, non è che siano mancate le strutture per allevare centinaia in Italia, centinaia di migliaia di animali. Naturalmente si crea il problema e poi non si pensa mai alla soluzione, poi ci devono pensare gli attivisti, no, credo, e basta, sì, purtroppo. Sì, questo sicuramente, perché in Italia purtroppo per gli animali selvatici come sono i visoni sono animali strettamente selvatici, non tollerano la presenza dell'uomo e di conseguenza non potranno mai stare, per esempio, pensiamo in una fattoria. Quindi non potranno essere liberati sul territorio. Credo sì, l'Italia non è pronta a queste cose, perché non ha strutture neppure per le poche decine di animali che vengono sequestrati a persone o a centri, non sappiamo mai dove metterli, animali anche magari che vengono ceduti dai laboratori di vivisezione. Vicino a Terni la Lave ha creato un centro per il recupero delle piccole scimmie che provengono da laboratori di vivisezione, ma certamente 3.000 visoni intanto per uno di questi allevamenti, poi sono 10, di conseguenza è una cosa molto difficile a risolvere questi problemi, però non credo che non si possano risolvere, penso che si possano risolvere, con la buona volontà si possono risolvere. Bene, grazie mille. Restiamo animali? Restiamo animali sempre, perché anche noi siamo animali.